9 in punto. Bentornati a 9 in punto, concludiamo la settimana come annunciato parlando di credito alle imprese, concludiamo la settimana e vi ricordo peraltro che lunedì tornerà anche Oscar Giannino dalle 9 alle 10, quindi credito alle imprese. Di fronte all'autunno, di fronte ai segnali di ripresa, c'è un rischio che alle imprese che vogliono innovare, che vogliono crescere, che vogliono rischiare, possa mancare un po' di ossigeno, la possibilità di ricorrere al credito bancario, anche perché si profila l'orizzonte Basilea 3, quello che viene chiamato Basilea 3. Che cos'è Basilea 3? È un accordo internazionale che dovrebbe essere approvato dai G20, dai grandi, nei prossimi mesi, in cui si restringono i requisiti patrimoniali delle banche, in pratica le garanzie che le banche devono dare prima di affidare appunto dei crediti, e quindi che si possa restringere la possibilità delle banche di dare dei crediti anche sulla base appunto delle preoccupazioni che sono sorte per la crisi finanziaria degli ultimi tempi. Minore rischi però vorrebbe dire anche minore possibilità operative per gli istituti di credito, minori margini di manovra, perché costringendo le banche a valutare anche con degli aspetti prevalentemente quantitativi le potenzialità delle imprese, queste imprese potrebbero trovarsi un po' col fiato corto di fronte alle stesse banche. Ecco, di questi temi parliamo con Antonio Quario, che ringrazio, caporedattore responsabile del Sole 24 Ore e di Plus 24. Buongiorno a tutti. Buongiorno Quario. Con il professor Angelo Ferro. Buongiorno professor Ferro. Buongiorno, grazie. Imprenditore, presidente nazionale dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, che proprio nei giorni scorsi ha scritto sul Corriere della Sera un appello allarme chiamato La nuova solitudine dell'imprenditore. Che cosa voleva indicare con questa solitudine dell'imprenditore, dottor Ferro? La situazione qui, ci sono l'imprenditore del Nord-Est, tutta la mia crescita imprenditoriale è stata fatta insieme con le banche locali. E quando si presentava un progetto e avevamo scarsità di capitali, con le banche si sviluppava un'azione di prudente affidamento che poi ha creato, per me che sono partito appunto 50 anni fa con un po' di soldi dati da mio padre, oggi un gruppo che ha 500 persone e che sviluppa un'attività nel campo delle macchine per l'industria alimentare. Le cose mi sono andate bene, però oggi quando io vedo alcuni colleghi che mi dicono che quella banca che aveva sempre affidato con loro si trova in difficoltà a concedere, e vado a fondo e mi rendo conto che tutto dipende da questi elementi quantitativi di requisiti di capitale, e cioè non c'è nessuna che è legato così a questa impostazione estremamente quantitativa di Basilea 2 e di Basilea 3, e lì trovo un aspetto fondamentalmente sbagliato. Perché il rischio collegato solo a parametri quantitativi non facilita altro che chi è più esperto nell'usare i parametri quantitativi, e vediamo il discorso delle agenzie di rating e il collegamento che hanno con grosse istituzioni finanziarie internazionali, basta vedere il caso della Grecia, basta vedere, loro sanno capire frazioni di numeri come possono essere giocati per creare speculazione. E allora tutta la lezione della crisi noi non l'abbiamo colta, perché c'è un eccessivo uso di derivati e c'è un eccessivo uso di liquidità. Mai come noi siamo cresciuti in un'epoca in cui avevamo difficoltà di capitali, mai come oggi c'è abbondanza di liquidità nel mondo, mai come oggi. Eppure è mai possibile che questa liquidità non venga sviluppata a livello di grandi istituzioni internazionali guidate dalle banche centrali per promuovere progetti di sviluppo che diano occupazione, che risolvano i problemi di fondo? Noi in fin di conti siamo diventati imprenditori con una logica di soddisfare bisogni, di creare occupazioni, di valorizzare il nostro territorio e impiegando le risorse. Oggi ecco, invece è solo un discorso finanziario. Ecco, c'è il rischio quindi che anche quello che è stato il modello italiano di piccole imprese affiancate anche da piccole banche, pensiamo alla rete delle banche cooperative che ha sostenuto appunto l'imprenditoria delle piccole imprese, possa essere un po' ingabbiato nei nuovi modelli di controllo del rischio, dottor Ferro? Io ne sono sicuro di questo, perché vedo come sento i miei amici, persone serie, persone che credono all'impresa, persone che hanno sviluppato quella morale economica che è dato dal fatto che ti trovi davanti ai tuoi collaboratori quando abbiamo una dimensione di imprese di alcune centinaia di persone, conosciamo tutti, ma non perché siamo i padroni di una volta, ma perché c'è una rete che sviluppa tutto questo, c'è una possibilità di crescere insieme, di fare comunità. E queste aziende oggi si trovano che quella banca gli dice: ma io non posso darti più quei soldi di prima, perché attraverso Basilea 2 non posso più arrivare a queste determinate situazioni. Allora com'è questa cosa qua? Perché si è creato questo meccanismo che va contro le esigenze dello sviluppo vero, che è quello di una finanza in funzione dell'economia e una funzione dell'economia in funzione dello sviluppo umano? Perché? E questo è il punto. Allora io mi chiedo se abbiamo capito la lezione di questi derivati pazzeschi. E lì c'è il problema della diversificazione del rischio. Noi l'avevamo affrontato negli anni 70 e 80 il problema della diversificazione del rischio. Pensavamo che facendo grandi conglomerati potevamo riuscire ad avere la grande dimensione. Eravamo anche loro il mito della grande dimensione, eravamo anche allora. E poi abbiamo capito che se non ci mettiamo a ritornare sul nostro core business facciamo solo follie. Quando lei prende un derivato, più grande è quel derivato, cosa c'è sotto? Chi me lo dice? I parametri quantitativi del capitale delle banche? Non lo sanno neanche loro, perché quanto più è complicato il derivato, tanto meno è conosciuto. E questo è il discorso fondamentale. Non hanno fatto nessuna attenzione, avendo tutte le armi importanti per poterlo fare, a questo determinato problema. E noi abbiamo ancora un eccessivo uso di derivati, un eccessivo spregiudicato uso della liquidità internazionale e locale. E questo soprattutto da parte delle grandi banche internazionali, delle grandi banche americane, delle banche d'affari, quelle che hanno appunto provocato la crisi. Non dimentichiamo il fallimento di Lehman Brothers 3 anni fa, gli interventi molto forti da parte dei governi, una crisi appunto provocata da una finanza innovativa che però si è sviluppata soprattutto oltre Atlantico, e in cui le conseguenze adesso dei rimedi che vanno cercati per sostenere appunto questo sistema finanziario un po' drogato dai derivati rischiano di essere pagati dall'economia, che invece questi strumenti non hanno usato, come l'economia e la finanza italiana. Antonio Quario, responsabile di Plus 24, caporedattore del Sole 24 Ore, questa visione appunto in cui l'Italia rischia di essere colpita indirettamente e direttamente dalle misure prese per risolvere altri problemi è realistica? Ecco, sulla domanda mi trovi preparato, perché proprio qualche settimana fa mi è capitato di cercare di spiegare quello che tu mi stai chiedendo su Plus usando questa immagine. Per quale ragione una banca locale, tu hai già citato le banche di credito cooperativo, ma in Italia ci sono anche tante altre banche di territorio, perché una banca così, che per decenni, qualche volta per secoli, ha finanziato una piccola azienda, una piccola attività economica, un negozio anche di là della strada, magari ha finanziato il nonno e il padre dell'attuale imprenditore e che quindi ha una conoscenza perfetta, qualitativa e quantitativa, anche senza i rating di Basilea 2, ha una conoscenza perfetta del rischio che va a correre finanziando questa piccola attività economica di rimpettaia. Perché questa banca si è trovata a non poter più finanziare perché i mercati erano paralizzati nell'immediato dopo crisi, o ora perché in termini strutturali e regolamentari non potrebbe forse, rispondendo a Basilea 2, finanziare più quell'attività? Perché si è creato un meltdown, un collasso altrove, provocato da banche completamente diverse, che hanno, come spiegava il professor Ferro, completamente alienato la funzione della finanza rispetto all'economia reale e all'impresa, finanziando imprese, grandissime imprese, non più per produrre fatturato, redditi, occupazione, valore aggiunto, ma solamente principalmente per promuovere grandi operazioni finanziarie, grandi OPA, grandi merger, grandi deal dove era la finanza e l'utile finanziario al centro, e non c'erano più i fondamentali economici sul tappeto. Ecco perché la filiale della banca di credito cooperativo o dell'altra banca di territorio italiana, francese, tedesca, polacca, sudamericana, in futuro cinese, non potrà più finanziare il lavoratore e l'imprenditore locale, ma sarà costretta entro una gabbia pensata per una finanza che viene detta globale, ma che forse così globale, così di tutti non è. Una finanza che ha avuto l'illusione di creare i soldi con i soldi, di creare della ricchezza attraverso degli strumenti finanziari fine a se stessi, che ha avuto anche in fondo che ha corso il rischio sempre più spesso di guardare sempre più a breve termine, di stringere i tempi, lo sottolinea nel suo articolo il professor Ferro sul Corriere della Sera, La nuova solitudine dell'imprenditore, lo ricordo, in cui parla appunto di questo dato temporale, di un impegno finanziario che vuole dei risultati immediati e quindi che prescinde un po' da quella tradizionale ricchezza delle imprese, che è data dal lavoro, che è data dal rischio imprenditoriale, che è data dal cercare nuovi mercati, di fare nuovi prodotti, in cui la finanza è un supporto indispensabile, ma un supporto. Ecco, in questa prospettiva forse bisogna cominciare anche a ragionare, come osservava l'amministratore delegato di Banca Intesa in un'intervista con Corriere della Sera pochi giorni fa, Corrado Passera, che non ci sono le banche in senso complessivo, le banche, non si può più parlare di banche, si deve parlare di singoli istituti di credito, di singoli settori, di singole entità, perché ci sono grandi banche che hanno diverse strategie, ci sono piccole banche che hanno bisogno di altri interventi, che hanno bisogno anche di altri parametri di funzionamento. Donato Masciandaro, docente di economia politica alla Bocconi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, parlare appunto di sistema del credito forse vorrebbe dire fare di ogni erba un fascio, è giusto entrare un po' più precisamente nei singoli settori bancari e magari studiare delle formule diverse perché questi singoli settori bancari abbiano anche dei requisiti patrimoniali diversi. Masciandaro. Io, dottor Favi, preferisco le risposte secche anche per non far addormentare i nostri ascoltatori e voglio solo sottolineare cosa mi differenzia dai due interventi precedenti. Quello che mi differenzia è che non è vero quello che si dice circa le caratteristiche di gabbia dei coefficienti patrimoniali. I coefficienti patrimoniali devono essere uno strumento per dare meglio il credito e quello che caratterizza il sistema bancario italiano, lo dicono alcuni lavori che poi presenteremo come al solito nel forum del 24 ore ad ottobre, i lavori della Fondazione Rosselli, mostrano che la specialità delle banche italiane in questa fase è stata proprio quella di mixare al meglio l'informazione cosiddetta hard, quella da Basilea 3 per intenderci, con l'informazione soft. Allora, al di là delle singole esperienze, al di là delle testimonianze, al di là del fatto che da sempre gli imprenditori si lamentano dalle banche, quello che i dati aggregati raccontano è che il sistema bancario italiano è speciale, uno perché ha saputo mixare al meglio le due forme di informazioni, due perché anche nella fase di crisi è quello che ha meglio accomodato rispetto alle esigenze dell'impresa. Quindi io direi assolutamente sì, evitiamo di fare di tutte le erbe un fascio, il sistema bancario italiano è speciale, le banche italiane al loro interno sono diverse uno dall'altro. Credo che il sistema bancario italiano abbia tutte le carte per alzare la voce sul tema delle regole e per evitare che si arrivi invece alla gabbia, perché la gabbia a che cosa serve? Serve solo a quei banchieri che non vogliono prendersi le responsabilità e quindi ti fanno vedere il numerino e ti dicono sulla base del numerino non ti posso dare il credito, ma l'hanno già deciso sulla base di altre informazioni. Quindi io credo che dobbiamo lasciar perdere quest'idea della gabbia e guardare i numeri. I numeri sul sistema bancario italiano ci raccontano una storia diversa. Ma indubbiamente il sistema bancario italiano è fatto appunto di tante banche e non si tratta di essere manichei e dire sono tutti cattivi o tutti buoni. Indubbiamente il problema è quello di lasciare aperta però la possibilità, appunto, di non parlare di gabbia, di lasciare aperta la possibilità che le banche possano avere un rapporto costruttivo con le imprese. Questo è il problema di fondo, costruttivo con le imprese senza che questa gabbia del rischio possa appunto trovare degli argomenti in più per bloccare la possibilità che c'è stata in passato, indubbiamente, che resta ancora, perché non è che il credito si sia fermato. Gli ultimi dati lo dicono, ma si tratta di dati aggregati. Poi quando il singolo imprenditore si trova di fronte al banchiere e si sente dire ma sa Basilea 3 adesso dobbiamo stare un po' più attenti, allora quello diventa un caso particolare. Antonio Antonio Quaglio. Sì, io intanto saluto Donato Masciandaro e anche il professor Ferro che non l'ho fatto prima. Io accolgo come molto spesso al telefono quando abbiamo appunto discusso gli interventi di Donato su Sole 24 Ore, l'ultimo molto bello ieri mattina. Io non intendevo essere manicheo sul concetto di gabbia, però mi piaceva sottolineare il professor Ferro parlava di contraddizioni. Ecco, a mio avviso una contraddizione grossa ancora nel dibattito su Basilea 3 è questo. Basilea 3 viene presentata come una risposta alla crisi, come uno strumento di exit strategy, mentre consentimi di sottolinearlo Donato, Basilea 3 è la versione 3.0 di Basilea, che è figlia del sistema finanziario che, come ricordava Gianfranco Fabi, se non ha provocato la crisi, quantomeno è stata la strada lungo sulla quale la crisi è stata provocata. Basilea 2 prima di Basilea 3, ed era già contestata prima della crisi con argomenti più deboli probabilmente, Basilea 2 è un'architettura di vigilanza prudenziale per un sistema finanziario pensato attorno ai mercati finanziari, attorno a mercati finanziari integrati, globalizzati, sui quali si affacciano essenzialmente aziende medie e soprattutto grandi che risolvono i loro problemi finanziari di gestione e di investimento con securities sui mercati, con azioni e obbligazioni, e sono assistiti da banche che si siedono attorno al grande mercato globalizzato e che originano, valutano e vendono, ma non si assumono più, il rischio finanziario. La cosiddetta finanza globalizzata, sulla quale Basilea 2/3, sottolineo, è tuttora modellata, è quella finanza. Il vero dibattito sulla crisi, tu l'hai sottolineato anche tu varie volte su Sole 24 Ore, è: la crisi è stata un grave incidente di percorso, ma pur sempre un incidente da risolvere con mezzi tecnici, o la crisi al contrario è un momento in cui è necessario ripensare a fondo il modello, come diceva il professor Ferro, il rapporto tra sistema finanziario e economia reale. Ecco, in fondo si tratta di chiedere umilmente, ma molto fortemente, ai banchieri di diventare imprenditori, cioè di fare parte anch'essi del sistema economico, del sistema produttivo, di non essere una casta a parte, una casta che ha potere, una casta che ha i soldi e quindi ha potere, ma qualcosa che è al servizio dell'impresa. Io vorrei chiedere al professor Ferro, lo ricordo, imprenditore, presidente nazionale dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, sottolineando che ci sono un paio di messaggi a lui dirette. Uno dice dovrebbe fare il professor Ferro il ministro dello sviluppo economico. Ringrazio da parte del professor Ferro. però, un altro messaggio chiede molto concretamente: ma gli imprenditori molto spesso non riescono ad essere capaci, non riescono ad essere abbastanza forti per rimporre la loro visione ai banchieri. Questo rapporto tra impresa e banca deve essere un rapporto conflittuale o può essere, professor Ferro, un rapporto di collaborazione? Ma io, per l'esperienza mia e dei miei amici, abbiamo sempre trovato, ma non per fare lobby, ma sono persone che operano nell'impresa con un focus determinato nel sentirsi protagonisti della realtà imprenditoriale, ma anche per cercare finalità al di là del business vero e proprio, cioè finalità di bene comune. Noi non abbiamo mai trovato un rapporto conflittuale con le banche, quindi il problema per me non è la classe di banchieri, il sistema bancario italiano, è l'ingabbiamento che questo sistema sta subendo per questa posizione a monte delle autorità monetarie di concepire il problema finanziario fine a se stesso. E questa è una visione, proprio parliamo sempre di globale, ma globale è quando andiamo nel breve termine, perché tutto è legato al breve termine oggi. È proprio l'opposto di quella che è una funzione dell'economia reale, che fa investimenti nell'arco di anni. di un progetto di vita, noi vediamo è tutto collegato. Quando i ragazzi si drogano è perché manca un progetto di vita, ma chi può darlo un progetto di vita quando tutto è legato al breve? Allora vogliamo capirlo, che tutto è collegato, che c'è un'interdipendenza su queste situazioni qua, e chi governa la base finanziaria, avendola oggi soltanto fatto un discorso tecnico di addetti ai lavori e lasciando che ci sia questa liquidità in perenne ricerca di situazioni a breve. Vediamo il prezzo della farina, io ho un'azienda che fa macchine per l'industria alimentare, il prezzo della farina di patate è cresciuta del 60% in giro di 3 settimane, ma cosa mi raccontano? Che c'è stato il grano, c'è stati gli incendi, sono tutte speculazioni, appena si muove qualcosa, passo il cerino, investo e poi lascio gli altri che se li prendono, ma non è così che si fa, come possiamo noi fare sviluppo se non abbiamo più queste determinate certezze? Allora lì è il punto fondamentale, dobbiamo, come è stato detto, definire ben chiaro, vogliono governare il sistema finanziario, lo facciano con delle altre banche, lo facciano con altri sistemi, non chiamino Financial Stability Board questa determinata cosa, perché questo non fa altro che ingabbiare e infossare l'economia. Cioè affidarsi troppo alle regole senza puntare sui comportamenti. Noi vogliamo le regole, ma le regole che possano portare sviluppo ed occupazione. Queste sono le regole in cui ci sia un rapporto di fiducia, non delle regole in cui poi veniamo stravolti da una situazione di questo eccesso di liquidità pazzesco, enorme che c'è e che si sviluppa soltanto nel sfruttare situazioni emergenti, volutamente, come è stato il caso della Grecia, lo sapevano benissimo i punti deboli, eppure prima hanno collocato i titoli, hanno fregato anche le banche tedesche nel collocare i titoli, ma lo sapevano benissimo per proprio sfruttare questo. È tutto funzionale al breve, allora vogliamo capirlo e questa è la lezione vera. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di credito alle imprese, di sistema bancario, di nuove regole, Basilea 2, Basilea 3, di rischi per il sistema imprenditoriale, di crescita possibile in vista per l'autunno, dei vincoli che rischiano di avere le imprese nell'avere nuovo credito delle banche. Ne stiamo parlando con Antonio Quaglio, caporedattore responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, con Angelo Ferro, imprenditore, presidente nazionale Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, con Donato Masciandaro, docente di economia politica alla Bocconi. Ecco, sono vari messaggi SMS che ci dicono: ma il sistema bancario è meno efficiente di quello italiano, è meno efficiente di quello di altri paesi, gli spread tra tassi attivi e tassi passivi sono più alti, i costi dei mutui sono più alti di quelli di altri paesi europei. Ma Masciandaro, questa visione di un sistema bancario italiano un po' più stabile ma un po' più arretrato, è vera? Sempre facendo riferimento ai dati e sempre sottolineando con Antonio che durante la trasmissione dobbiamo rimarcare i punti di disaccordo anche se non ci sono, se no gli ascoltatori si annoiano, ma ritornando ai dati, l'ampiezza dei margini è un ritornello vecchio, è stato dimostrato econometricamente che l'ampiezza dei margini a parità di efficienza delle aziende non dipende dalle aziende stesse, dipende dall'inefficienza del sistema paese. Dove l'inefficienza del sistema paese siamo noi. Noi siamo un paese ad alta propensione all'illegalità, siamo un'alta propensione all'evasione fiscale, siamo un paese in cui il sistema di per sé è inefficiente. Quando avete, è stato ancora ricordato in questi giorni, la grande emergenza del paese è l'inefficienza delle regole pubbliche. Il cosiddetto capitale sociale o civile è bassissimo, ma non, il punto è che quando abbiamo un sistema in cui un terzo del paese evade, quando abbiamo un tessuto produttivo in cui abbiamo la piccola e media impresa che non sono dei bambini che stanno crescendo, ricordiamo che piccolo vuol dire nano. Il problema del nostro paese è che abbiamo dei nani che non crescono. E perché non crescono? È perché spesso hanno una doppia contabilità, è perché spesso sono sottocapitalizzati e nonostante tutto si riesce ad avere degli 0 qualcosa di crescita. Allora, invece di girare intorno al problema, chiediamoci come mai la grande emergenza del paese, cioè l'incapacità di non far funzionare le regole, è tale di fatto dal dopoguerra ad oggi in alcune regioni ormai è drammatica, semplicemente perché evidentemente la gran parte del paese in questa situazione si trova bene. Sì, però è un circolo vizioso che va un po' spezzato, perché indubbiamente c'è un'inefficienza della giustizia, c'è una lentezza dei processi, e questo comporta anche che appunto il rischio cresca, perché quando per esigere un credito ci vuole molto tempo, è chiaro che anche lo stesso sistema si crea appunto dei paracaduti supplementari di fronte al rischio di dover aspettare poi per anni l'esecutività di un decreto e così via. Quindi questo circolo vizioso va un po' spezzato, se no si è sempre di avere una giustificazione a qualcosa, si giustifica l'inefficienza dell'uno con l'inefficienza dell'altro, e allora bisogna avere un po' di speranza di rompere questo circolo vizioso. Professor Ferro, come rompere il circolo vizioso di un paese che è inefficiente e quindi crea ulteriori inefficienze? Beh, intanto la fortuna è che c'è una stretta dei conti pubblici, e quindi a un certo momento soprattutto il settore pubblico, che è un settore dove appunto gli sprechi si annidano e dove la corruzione si alimenta, dovrà fare i conti effettivi. E questo è il grande merito della manovra Tremonti, che ha messo tutti, adesso ancora le conseguenze non li avvertono, ma però su un aspetto diremo così di situazione di... Poi la speranza è che attraverso questo discorso di federalismo si possa effettivamente fare dei confronti comparati sul modo come si usano le risorse pubbliche, perché questo è l'elemento forte, e quindi si sia l'inizio per premiare coloro che meritano di essere premiati, che ci sono dovunque. Nel settore della scuola, noi perché ancora non siamo ai pressi di chiamarsi qualcheduno dei professori più bravi per fare delle cose? Dobbiamo cominciare dal basso. Allora io dico che il sistema bancario, qua concordo molto con quello che diceva il professor Masciandaro, il sistema bancario italiano è un sistema sano, noi troviamo degli interlocutori capaci in loro. Tanto è vero che hanno iniziato adesso un'attività verso il terzo settore, che è forse una delle realtà che sono tipiche della nostra cultura. Il discorso che adesso si affianca del welfare sussidiario, le iniziative che le imprese stanno facendo in questo campo, e nello stesso tempo un sistema che attraverso banche specializzate cerca di dare maggiore efficienza ed efficacia a chi, mentre prima credeva che bastava fare assistenza e quello era già sinonimo di bene, ecco, questi sono tutti elementi che a mio avviso danno forte speranza, e danno speranza anche queste capacità reattive. Io vedo nella mia regione una capacità reattiva nell'agganciarci alla ripresa, nel collegarsi con la Germania, nel sviluppare appunto tendenze esportative e tendenze innovative molto forti. Ecco, c'è una domanda di Antonio con un SMS per lei, professor Ferro, in cui dice: ma più che dalle banche il sistema imprenditoriale, il sistema delle imprese italiane dipende dai finanziamenti pubblici, dagli aiuti di Stato? Più che degli aiuti di Stato, io direi che se lo Stato pagasse regolarmente quello che deve alle imprese, non avremmo tutto questo sistema anche di corruzione, potremmo trovare una serie di situazioni. Lo Stato dovrebbe dare il buon esempio di essere il vero padre di famiglia che collabora perché la famiglia cresca e quindi rispetti i suoi impegni e quindi faccia onore al suo senso di responsabilità. Ecco, io penso che i finanziamenti pubblici oggi, tutti sappiamo, i veri imprenditori sanno che è tutto un terno all'otto, e quindi cercano così di limitarsi a quando ci sono delle regole così forti da poter essere certi che quel finanziamento, quel progetto di ricerca ha la sua applicazione in tempi molto brevi. Noi oggi, credo, io non lo so, non sono addentro nei dati, però la sensazione è che ci sia una minor attenzione al finanziamento pubblico da parte delle vere imprese produttive. Anche perché molto spesso si pensa al finanziamento pubblico, per esempio alla cassa integrazione, mentre la cassa integrazione è finanziata in gran parte attraverso i contributi delle stesse imprese. Vede, questo aspetto, che di fronte a determinate difficoltà questa morale economica che esiste nelle nostre imprese industriali, che deriva forse da una così tradizione contadina del legame con il territorio, del legame con la gente, questo discorso di welfare sussidiario che non è solo delle piccole imprese, perché portavoce per prototipo è stata la Luxottica con queste iniziative, e questi sono sensi che danno speranza soprattutto alla gente che lavora e che dice insomma qui mi trovo trovo di fronte un interlocutore che capisce e cerca di darmi una mano. Che ha una prospettiva appunto sociale. Io ascolterei alcuni ascoltatori appunto con le loro telefonate. Ettore da Campobasso, dalla provincia di Campobasso. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, io sto ascoltando tutto quello che si sta dicendo e in effetti è giusto relativamente al discorso bancario che ha le sue problematiche nei confronti degli imprenditori, a quello che è il sistema Italia che diciamo ormai non funziona a tutti i livelli, se vogliamo. Però quello che avverto fondamentalmente alla base di tutto è ormai un'assenza da parte degli italiani di quella che è una coscienza di Stato e una sensibilità su questo problema vero e fondamentale che poi determina quella che è una grande democrazia o le grandi democrazie dei vari paesi europei, insomma, che su questo diciamo fondano la loro forza e la loro capacità di riprendersi ogni volta. In effetti quello che ci sta mancando e ormai ci manca da diversi anni è proprio questa coscienza, cosa di dire: noi siamo italiani, abbiamo i diritti e i doveri da dover rispettare e dobbiamo cominciare una volta per tutte a rispettarli. Cioè non possiamo pensare che lo Stato sia qualcos'altro, come sempre purtroppo si vede e si constata soprattutto in questi ultimi tempi. Certo, è un problema, è una prospettiva che dovrebbe accomunare appunto tutti i cittadini, pensare allo Stato come qualcosa che non è diverso da sé, ma è parte appunto di quella coesione nazionale in cui dovrebbero essere tutti a guardare nella stessa prospettiva, non una controparte. Lo Stato spesso è visto come una controparte e spesso è visto addirittura come un nemico, come qualcosa che è ostacola, che opprime, e questa è certamente una visione in cui che è determinata anche dai comportamenti di alcuni organi dello Stato, comportamenti che comunque dovrebbero essere superati, dovrebbero essere da una parte condannati, dall'altra parte superati attraverso un impegno anche da parte dei cittadini e di chi nello Stato opera. Rudy da Trento, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Interessante il vostro dibattito sul finanziamento delle piccole e medie imprese, soprattutto per il fatto che hanno dimostrato nel corso di questa crisi di riuscire a reggere in modo molto importante il colpo della crisi, ma sono le stesse imprese che hanno avuto delle grosse difficoltà a trovare i finanziamenti sul settore finanziario, perché per dimensioni e soprattutto per il fatto che il sistema finanziario ha sempre negli ultimi anni privilegiato un'ottica di breve periodo rispetto all'ottica di medio e lungo termine, ha di fatto ridotto la capacità di investimento delle proprie progetti industriali. Grazie, sì, indubbiamente c'è stata questa maggiore attenzione al rischio, anche se complessivamente il credito è continuato, soprattutto in Italia, è continuato ad affluire alle imprese. Non ci sono stati dei dati negativi. L'osservatorio permanente dell'Associazione Bancaria Italiana segnalava crescite limitate dell'1% su base annua degli impieghi in Italia. Ma ci ha raggiunto Federico Cornelli. Buongiorno, dottor Cornelli. Buongiorno. Direttore operativo di Federcasse, la struttura che riunisce tutte le banche cooperative, il sistema bancario di piccole banche diffuse sul territorio che hanno più una sensibilità nell'ambito del rapporto appunto con la piccola e media impresa, soprattutto nelle aree come il Nord-Est, la Lombardia, la Via Adriatica, dove il sistema di piccole e medie imprese è cresciuto di più negli ultimi anni. Ecco, quali sono i segnali che vengono dal territorio, dottor Cornelli? Una buona giornata a tutti. I segnali sono quelli di un sistema produttivo che ha superato il momento peggiore della crisi e che adesso si affaccia a una ripresa timida, magari un po' tirata dall'export, quindi da un cambio dell'euro che in questi ultimi mesi un pochino lo ha favorito. Le imprese sono ancora bloccate sul lato degli investimenti, soprattutto in medio e lungo termine, hanno avuto invece un bisogno sensibile di capitale circolante per andare avanti e quindi hanno aumentato notevolmente l'esposizione verso tipi di finanziamento a breve termine, spesso perché il sistema della loro tesoreria era un pochino inceppato sul lato degli incassi. Questo ha indotto anche molte ristrutturazioni di debito e devo dire che per quanto riguarda il caso del credito cooperativo abbiamo cercato di porre la massima attenzione e il massimo supporto possibile verso piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e le famiglie, verso una ristrutturazione complessiva, un accompagnamento, un traghettamento verso un momento migliore di crisi, con tutti gli strumenti, in particolare del credito ordinario, quindi allargamento di anticipi di confine, allargamento di scoperti. Il credito cooperativo nell'anno passato ha elargito nuovi finanziamenti per quasi il 7%, quindi come se si fosse stati in un periodo massimamente espansivo. Questo è stato un po' lo sforzo a supporto della nostra piccola imprenditoria, che poi è la spina dorsale del paese. Ecco, le vostre banche, da un punto di vista appunto di requisiti patrimoniali, potrebbero anche approfittare appunto dell'occasione, dell'abbondanza di liquidità, per rafforzare il proprio patrimonio e per con questo, rafforzando il patrimonio, avere anche maggiori strumenti operativi, maggiori fondi da offrire alla clientela. È questo un problema, oppure c'è più un problema di diciamo di affidabilità della stessa clientela, dottor Cornelli? Per quanto riguarda le oltre 400 banche di credito cooperativo, sono banche super patrimonializzate. Questo deriva da un approccio storico ultragenerazionale di grande accantonamento. Se volete, il capital buffer proposto adesso da Basilea 3 fu disegnato dai nostri padri fondatori più di 100 anni fa. Quasi tutte le BCC, Casse Rurali Artigiane, Raiffeisen, hanno ben oltre i requisiti patrimoniali richiesti da sempre, e in più sono state massimamente liquide in questo periodo, essendo poi alla fin fine una grande risorsa per il paese, perché offrivano liquidità sull'interbancario nei momenti peggiori. Il capitale per noi è una risorsa comunque da costruire con calma nel tempo, attraverso spesso utili riaccantonati. Non andiamo in borsa, per essere chiaramente chiari, a fare grandi operazioni in capitali, non essendo titoli quotati. Certo, quindi essere super. Prego. No, dicevo, sotto questo profilo quindi non c'è un problema di requisiti patrimoniali. Eccoci qua per l'ultima parte di 9 in punto. Stiamo parlando di banche, di credito alle imprese, di prospettive dell'autunno, di difficoltà degli imprenditori ad accedere al credito, del sistema italiano certamente complesso, che ha tanti difetti ma che in fondo ha anche tanti pregi. Non sarebbe altrimenti capace di crescere come sta crescendo, di creare appunto e di aver creato la ricchezza che ha creato negli ultimi anni. Quindi avere coscienza dei problemi è certamente importante, ma non dobbiamo pensare che ci siano solo problemi, ci sono soprattutto tante potenzialità all'interno di questo sistema e tante potenzialità che possono essere sfruttate. Stavo parlando con Federico Cornelli, direttore operativo di Federcasse. Ne approfitto per aggiungere la domanda precedente, che era appunto sul patrimonio delle banche, se queste banche sono in grado di offrire il credito di cui il sistema ha bisogno. Ci sono domande soprattutto che chiedono da parte degli ascoltatori: le banche continuano a chiedere requisiti patrimoniali reali e non tanto sulle prospettive imprenditoriali delle imprese. È vero che le banche, per dare degli affidamenti, chiedono garanzie reali, cioè fideiussioni sul patrimonio, immobili, garanzie, ipoteche, e non tanto garanzie appunto sulle prospettive e sull'affidabilità personale. Dottor Cornelli. Ma il sistema di Basilea, già da Basilea 2, anzi da Basilea 1, sposta un po' l'attività e il calcolo dei requisiti patrimoniali per le banche a favore di affidamenti che danno garanzie reali. Le garanzie reali consentono alle banche di per così dire, impegnare una parte minore di capitale, e questo avviene in tutti i paesi, quindi i famosi pegni su titoli o ipoteche sono senz'altro sempre visti di buon occhio dal banchiere. C'è da dire che in particolar modo nella piccola impresa, nel piccolo artigiano, nel piccolo imprenditore o operatore economico, il credito cooperativo ha cercato di sviluppare un approccio che è storicamente suo, proprio di accompagnare imprese nascenti. Se voi andate a fare una analisi storica di molte medie imprese italiane, sono partite con delle start-up che in inglese si chiamerebbero dei piccoli private equity, finanziati a credito cooperativo, così semplicemente con le forme degli scoperti di conto, degli anticipi, spesso su rapporti fiduciari, su rapporti di grande conoscenza relazionale, perché l'imprenditore è conosciuto sulla piccola piazza, e quindi diciamo che c'è un approccio di grande flessibilità a vantaggio delle idee imprenditoriali che possono avere uno sviluppo di medio periodo. E il sistema bancario italiano è abbastanza pronto, e in genere in tutte le sue componenti dotate tutti gli strumenti per accompagnare iniziative imprenditoriali valide. Mi sembra che in questi anni non siano mai mancate le possibilità di approvvigionarsi sia di capitale circolante sia di capitale di investimento. Sentiamo un altro ascoltatore, Stefano D'Avellino, buongiorno. Buongiorno, io sono responsabile, prima saluto tutti quanti, buona giornata. Grazie. Buone vacanze, se qualcuno l'ha fatta ancora. Saluto il professore Ferri, che ho avuto modo di conoscerlo ad Udine, e lo aspetto ad Avellino a settembre. Detto questo, io vivo ormai da 40 anni nella realtà campana in particolare, quindi mi occupo dell'API con Fabi, quindi con una realtà complessa. E notavo, prima sottolineavo, al di là di Basilea 2 o Basilea 3 che tanto ci mette in difficoltà, ma l'aspetto purtroppo negativo nella nostra regione è che quando un piccolo imprenditore che ho accompagnato prima di Natale qualche mese fa in una banca col Confidi, per avere un piccolo affidamento lui doveva lanciare, diciamo, un suo prodotto molto buono, un'impresa di eccellenza come tante ce ne stanno in Campania, purtroppo abbiamo una variabile molto grossa che ci blocca, che ci frena, ed è l'usura, la camorra, giusto per dirla. Io stesso ho sofferto per anni questa realtà, però ho voluto e ho resistito, sono stato qui in Campania anche per trasferire ai miei figli dei valori imprenditoriali, ma valori anche di comportamento, di etica. Però le banche non ci accompagnano in questo senso, le banche non decidono, non hanno la voglia di responsabilizzare, di fare gli imprenditori, fanno i finanzieri. Ma finanza è creata da chi? Da noi, piccole e medie aziende, che con il nostro parte del nostro margine di contribuzione che ha confluito a strutturare le banche finanziariamente, poi ci hanno abbandonato trasferendo le loro finanze, facendo la grossa finanza, facendo altre cose che non è economia reale. Ecco, indubbiamente il problema dell'efficienza delle banche, della possibilità di trovare alternative certamente più rapide, certamente apparentemente più efficienti, perché gli usurai sono disponibili a dare dei soldi immediatamente, però dei costi enormemente maggiori, e soprattutto dei costi sociali enormemente maggiori, perché l'usura è parte della catena comunque di una criminalità organizzata che poi trova i finanziamenti attraverso questi sistemi. Alberto da Como. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per la linea. In due parole, ultimamente sto tentando di avere dei finanziamenti con le banche sulla base della mia esperienza imprenditoriale appena nata da 3 anni. Non chiedono più solo garanzie reali come fiduzioni sui mobili o l'esistenza dell'immobile alle spalle, ma chiedono liquido sul conto corrente per farmi aprire una lettera di credito. Beh, è un po' una contraddizione il fatto che chiedono di avere liquidità per avere appunto un prestito. Se uno ha liquidità non ha bisogno del prestito. Due banche, una molto importante e grande, e l'altra magari a livello più provinciale, più regionale, però la stessa domanda da parte di tutti e due: liquido sul conto, ti apro la lettera di credito. Un'ulteriore cosa, sentivo la disponibilità delle banche a collaborare e a seguire l'imprenditore nella sua crescita. Non ci siamo nemmeno seduti ma almeno un'oretta per guardare il business plan insieme. Gliel'ho dato, me l'hanno criticato, ma non si poteva neanche discutere il mio business plan quinquennale e crescere insieme. Non vedo questa accompagnamento, questo accompagnamento a braccetto della banca con l'imprenditore. La ringrazio. Ovviamente si tratta di casi singoli, casi particolari, si tratta anche di condizioni generali, politiche complessive che il dottor Cornelli, direttore operativo di Federcasse, dà per il sistema delle sue casse. Poi ogni sua banca, ogni operatore bancario, ogni direttore di filiale è responsabile di se stesso. Ovviamente di casi particolari ce ne possono essere tantissimi ed è giusto anche portarli alla ribalta. Ci avviamo alla conclusione. Indubbiamente non possiamo parlare di casi particolari, non possiamo parlare di singole banche, dobbiamo parlare di sistema, dobbiamo parlare soprattutto di atteggiamento da avere da parte di chi ricorre alle banche, di chi è cliente delle banche, ma anche dei banchieri e dei bancari, perché molto spesso i banchieri stanno molto in alto, i bancari sono quelli che hanno a che fare col pubblico e che magari hanno qualche problema di proprio di mettere in pratica delle regole operative. Allora vorrei concludere con un giudizio un po' di fondo, comunque secondo me con un giudizio di costruttività di un sistema che è aperto, che ha dimostrato in passato di essere un sistema solido, un sistema capace di offrire appunto anche al sistema delle imprese quel supporto che è necessario, e su questo, da questo bisogna partire per non perdere quei valori di fondo che sono i valori di affidamento personale, di rapporti personali, di rapporti che guardano molto alle capacità delle persone più che alle garanzie reali e finanziarie. Antonio Quaglio, in questa prospettiva il sistema bancario italiano è ancora un sistema che tra piccole banche, medie banche, grandi banche può offrire le soluzioni perché l'economia italiana possa tornare a crescere, forse non come miracolo economico, ma quasi. Ma dal mio punto d'osservazione, che è quello del cronista del Sole 24 Ore, che comunque ascolta il professor Angelo Ferro, ascolta il professor Donato Masciandaro, io sono positive, sono ottimista. Per essere veramente sintetico, l'augurio credo per tutti, per le banche, per le imprese, per gli osservatori, è che il sistema finanziario, ancora molto bancocentrico in Italia, ma tant'è, continui a poter offrire 1 miliardo di euro a una sola grande azienda a condizioni competitive sul mercato finanziario integrato globale, ma continui anche a finanziare i 10.000 euro, i 100.000 euro, il milione di euro agli oltre 4 milioni di imprenditori italiani. Anche perché l'imprenditoria italiana, appunto, è la capacità di seguire quella strada di innovazione che è l'unica che può portare appunto ad affrontare la competitività. Professor Ferro, per concludere, non è un ottimismo di maniera, è un ottimismo basato sulla realtà dei fatti e anche sulla capacità di persone di imporre dei valori di fondo, dei valori non solo di responsabilità ma anche di solidarietà all'interno di un sistema economico che può e deve crescere. Professor Ferro. Senz'altro siamo tutti d'accordo che c'è l'impegno di fondo da parte dell'imprenditore di continuare nella sua missione. Però vede, il problema è a monte, e cioè c'è un approccio finanziario a mio avviso deviato. Le do un esempio: io seguo una iniziativa per le persone anziane con un'opera non profit. Un mio ospite, 73 anni, viene da me e mi dice: ho voluto sottoscrivere un BTP a 10 anni di 20.000 euro perché mi dà il 4%. Mi hanno detto di firmare 4 fogli. E in questi 4 fogli lui diceva che sostanzialmente, siccome questa attività era alto rischio speculativo, lui firmava come MIFID e diceva: io sono uno speculatore. Ma è mai possibile questo? Ma è mai possibile arrivare a fare in modo di trasformare una realtà solo perché sono degli approcci a monti convenzionati che danno questo senso deviato? noi ad un certo momento avevamo trovato un sinonimo per parlare dell'economia e della società unite insieme, socio-economico. Pensavamo che nell'economico ci fosse la finanza, adesso la finanza va per conto suo, forse dobbiamo trovare un sinonimo che faccia in modo ancora di riportare al centro l'economia e al centro la persona. Ecco, indubbiamente al centro l'economia, al centro la persona, in un sistema economico che in questo può crescere, perché è la persona che ha la prospettiva, il dinamismo e quelle emozioni necessarie anche per cercare sempre nuove strade, per cercare sempre nuove prospettive. Una battuta conclusiva anche dal professor Masciandaro. L'augurio che si capisca finalmente, la trasmissione mi ha dato la certezza che ancora non si è compreso, che un sistema stabile non può essere un sistema dinamico. Se vogliamo, il nostro sistema è basato sul credito commerciale, il credito commerciale è basato sul principio di sana e prudente gestione. Se si vuol finanziare il rischio si finanzia in altri modi. Se continuiamo nell'equivoco, nel chiedere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè un sistema stabile anche dinamico, continueremo a chiedersi come mai questo sistema regge ma non cresce. Grazie Masciandaro, indubbiamente dobbiamo chiedere un sistema dinamico che sappia crescere, che sappia affrontare i rischi, che sappia correre, che sappia guardarli, che sappia mettere però al centro le persone per loro natura sono dinamiche, non possono stare sedute, devono camminare. Abbiamo raggiunto quasi le 10, ringrazio Antonio Quaglio, Angelo Ferro, Donato Masciandaro, Federico Cornelli, Carmelo Loricelli in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione. L'appuntamento è a lunedì, ma con Oscar Giannino.